È come una farfalla che non si posa, come la forma della tua guancia rosa, come la lieve curva della bocca per chi non sorride spesso, come quell'indolenza in mento che forse si può sopportare, come un oggetto in prestito che non vuoi più restituire. Semplice come il consiglio che mi hai dato, dolcemente inutile. Oggi tutto è semplice come il consiglio che mi hai dato, dolcemente inutile. Detta mezza bocca ed il rimorso che ora mi tocca, la volta che con uno sguardo mi avresti messo a terra. Semplice come il consiglio che mi hai dato, dolcemente inutile. Il consiglio che io non ho seguito mai, leggero come neve si confonde col silenzio. Leggero come neve si confonde col silenzio.